later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non accenna a rallentare, K e Drago sono alla resa dei colpi. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, alza le zampe e muoviti, dai, che il presidente del sindacato Piccioni Pensionati sta per cominciare. Muoviti! Va bene, ma aspetta, che mi sembra di aver visto un lombrico laggiù, si muove. Ma dai, lascia perdere i lombrichi. Andiamo a sentire quel che ha da dire quel mafioso, dai, che è più importante. Ma che cosa, lombriche? Drago! Che schifo! Ma buonissimo. Però, in effetti, carne fresca. Chicken's eat crap! Carissime iscritte al sindacato autonomo dei Piccioni e Picciotti Pensionati, questo è un grande giorno, un grandissimo giorno per tutte noi. La nostra strategia ha funzionato, la nostra immobilità, la nostra apatia, la nostra indifferenza hanno trionfato! Quando siamo arrivati qui eravamo poche decine. Poi però il flusso è continuato inarrestabile e noi c'eravamo. Anzi, noi ci siamo! E a forza di esserci, queste se ne sono accorte. Questa è della fabbrica di polli. In particolar modo se ne è accorto l'amministratore delegato, quel sant'uomo che un giorno ci dovrebbero pure fare un monumento. Guarda che te dico, l'amministratore si è accorto che noi ci siamo e ha convocato d'urgenza un consiglio d'amministrazione e ha detto testuale parole: io me ne vaio a Montevideo con un chiude e la fabbrica la regalo ai Piccioni! Sì, avete capito, un buono! La fabbrica dei polli è nostra! Grazie, grazie! No, no, c'è più buono, non mi scantate, c'è più buono! E allora, evviva! Il sindacato dei Piccioni Picciotti Pensionati, viva l'Italia e viva la libertà! Radio Rukhmanistan, nella persona rispettabile del Mullah Saldakhar, si dissocia da tutto questo di programma di fabbrica di polli, in quanto altamente offensivo di gusti e usanze del sacro popolo Rukhmano di Rukhmanistan. Ma passiamo alla cronaca militare. Mullah Saldakhar ha dichiarato guerra a Uruguay per aver dato asilo politico all'infedele cannibale cane mangia cane conosciuto nel mondo come Colonnello Unghiute. La fabbrica di polli. Allora Tarek, ma tu sei sicuro di saper guidare? Sì. Accendi allora, no? Allora? Ma che patate d'olive? Ma sei diventato uomo, ma il tuo cervello è rimasto quello di prima, come una gallina. E anche la voce. Ma che patate d'olive? Stai zitto, fai partire la macchina, no? Dai, su, gira la chiave, no? Oh, ecco, dai. Bravo. Allora, mi raccomando, tieni la destra, guida tranquillo. Ma no, la destra, no? Occhio che andiamo contro... No! Tu tu sei tranquillo, no? Tu pensa a Patate d'Olive. Patate d'Olive? Ecco, bravo, pensa a Patate d'Olive. Intanto io chiamo quei due là, i due spilungoni. Pronto? Pronto, K? Sono il pollo sbattimento, Pollo? E dove sei? Sono sulla macchina di Drago. Lui è lì con te? Chi? Drago? Ma sì, certo che è con me. Aspetta che metto il viva voce. Pronto, Pollo? Uè, ciao, Drago. Ciao, dove sei? Sono sulla tua macchina. È sulla tua macchina? Sulla mia macchina. Occio tu! Cosa occio tu? Tarè che guida, Io sto parlando al telefono. Ma sì, allora, cosa state facendo? Messo bene. Un attimo. Volevo dirti, prima di tutto, che la macchina funziona ancora bene. Vabbè. La carrozzeria fa un po' schifo, Sì. È un po' andata. Però qui si viaggia, Noi viaggiamo. Sì, ma non riesco a capire. La mia macchina, cioè, mi fa piacere che funzioni ancora, che l'hai trovata e tutto, però dov'è che siete? Allora, siamo diretti... Ah no! Ma vedi il cartello, no? Tarek, dov'è che stiamo andando? In Tirolo. Ah, ecco, in Tirolo. In Tirolo. Ah sì, per via dello spec, no? Ma no, vabbè, ma... Ma come? Sì, è mica finita poi, Perché dopo faremo un saltino in Francia. Ma in Francia? E per il Brie, no? Ma per il Brie, ma con la mia macchina. Eh sì, e poi dovremo finire prima o poi in Grecia per il Patate d'Olive, no? In Grecia? Scusate, ma io credo di non aver capito una cosa. Infatti, che... No, tu K hai capito benissimo. Io e Tarek non siamo mica in fabbrica. E siamo usciti, quindi possiamo andare dove vogliamo. Sì, ma come fate a guidare, scusa, due polli? Su, Drago, non farei il bamba. Noi due siamo diventati uomini, ma... Siete voi che siete diventati polli. Come si sapeva poi fino all'inizio, no? Ma perché le voci? Però le voci mi sembrano sempre infatti, ma questa è un'illusione sonora, forse, che, non so, ragazzi. Addio, pollastri. Ma come, addio, pollastri? Cioè, ma chi era quello? No, c'ha ragione, la Tarek. Ma gli fai parlare al telefono mentre guida? Va bene, li metto il telefono davanti. Ma no, guarda avanti! Occio, aspetta! La mia macchina! Occio, ma no! Pronto? No, pronto! La mia macchina! Ma non la tua macchina, il pollo, Tarek, Occio, Occio! Vabbè, ma la mia macchina più che altro. Adesso cosa facciamo qui? Cioè, noi siamo polli. Ma non lo so, Drago. A me sembra di vederti uguale a prima. Ma senti, facciamo quello che abbiamo sempre fatto. Dai, razzoliamo un po' di qua e un po' di là. Muovi la testa avanti e indietro. Ecco. Siamo tutti soli, ecco. Capo. Ma no, Drago, ecco. E poi, che ne so, possiamo chiedere compagnia. A chi? Non lo so, al signor Faraday. Ma, capo, tu ti fidi del signor Faraday? Ma dai, è un gentiluomo inglese. Preferisci, l'amministratore delegato che fa autistic management sotto i tavoli. Poi lui non c'è più, oltretutto. Magari però torna l'amministratore delegato con un iute, un po' di compagnia ce l'abbiamo. Poi ci sono sempre le galline episcopali. Quelle però è meglio non guardarle, Drago, ci si riduce così. E poi c'è la voce robotica, che insomma, un po' di compagnia ce l'abbiamo. Lineare Verstärkung. Esatto, che bello. Non so, il primo di classe potrebbe anche darci qualche conforto. Il primo di classe. È Radio Irkmenistan, l'unica radio che ormai si prende qui. Radio Irkmenistan. E possiamo, non so, rifondare il pugno nel pollo e cantare Vola Tucano tutti insieme. Vola Tucano. La Fabbrica di Polli, un programma di K e Drago, prodotto dall'Istituto Barlumen, con Guido Bertolotti, Fabiana Carobolante, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Franzoni, Camilla Frontini, Luca Gemma, Paolo Giangrasso, Claudia Mangano, Luca Micheli, Luca Monarca, Alberto Onofrietti, Sergio Ponchione, Rachel Roberts, Massimiliano Speziani, Mark Warden. So let me say goodbye. Oh, Aspetta, perché è un problema di fiato.